Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Sebbene la presenza del giovane italiano seguitasse a preoccuparla, Ida notò con piacere come, praticamente dal giorno del suo arrivo, il negozio fosse migliorato. Durante la prima settimana c'erano stati dei giorni in cui avevano incassato da 5 a 7 dollari più di quanto avevano guadagnato in media per parecchi mesi a partire dall'estate. La stessa media si raggiunse anche nella seconda settimana. Naturalmente il negozio era ancora povero, ma con questi 40 o 50 in più alla settimana si poteva almeno tirare avanti fin quando non si fosse trovato un acquirente. Da principio non riusciva di capire perché entrasse più gente, perché si vendesse di più. D'accordo, altre volte era accaduto lo stesso. Inaspettatamente, dopo un lungo periodo di magra, 3 o 4 clienti che non si erano fatti più vivi, un bel giorno ricomparivano, come si fossero ritrovati a uscire dalle loro povere abitazioni con qualche centesimo in più in tasca. Altri, che avevano lesinato sul cibo, cominciavano a comprare di più. Un negoziante si accorgeva immediatamente quando le cose cominciavano ad andar meglio. La gente era meno preoccupata e irritabile, meno in lotta per il posticino al sole. Ma la cosa curiosa era che, a sentire i camionisti, gli affari non andavano molto meglio da nessuna parte. Uno di loro disse che anche Schmitz aveva le sue grane e in più non stava troppo bene. Sicché l'improvviso rialzo delle vendite nel negozio, pensò Ida, non ci sarebbe stato senza Frank Alpine, e ci volle un po' per ammetterlo. Pareva che andasse a genio ai clienti. Chiacchierava molto mentre li serviva, talvolta dicendo cose che imbarazzavano Ida, ma facevano ridere le massaie non ebree. Attirava gente che lei non aveva mai visto prima nel quartiere, non solo donne, anche uomini. Frank cercava di fare quel che a lei e a Morris non era mai riuscito, per esempio, provare a vendere alla gente più di quel che aveva ordinato, e di solito gli andava bene. «Cosa ci fa con un etto?» diceva. «Un etto basta per gli uccellini, non è neanche un boccone. È meglio fare due». E loro acconsentivano. Oppure diceva «Ecco una nuova qualità di senape che ci è arrivata oggi. Pesa 60 grammi in più di quello che le danno ai supermarket per lo stesso prezzo. Perché non la prova? Se non le piace, me la riporti che la adopererò per fare i gargarismi». I clienti ridevano e compravano la senape. Ciò induceva Ida a chiedersi se lei e Morris erano veramente tagliati per fare i negozianti. Non erano mai stati dei venditori. Un cliente disse che Frank era un super venditore, parola che lo faceva sorridere soddisfatto. Era sveglio e lavorava sodo. Ida, nonostante la sua riluttanza, prese a rispettarlo di più. Lei discusse la situazione con Morris e portarono la cifra per le sue spese minute da 50 cents al giorno a 5 dollari la settimana. Nonostante la buona disposizione nei suoi confronti, Ida ne era preoccupata, ma dopo tutto stava facendo affluire in negozio più denaro, il locale era in perfetto ordine, che si prendesse dunque 5 dollari del magro profitto. Durante la giornata, quando Ida non c'era, Frank vendeva per almeno un dollaro o un dollaro e mezzo che non metteva in cassa. Ida non sospettava nulla. L'abitudine di farle vedere una lista delle merci vendute era stata abbandonata perché poco pratica. Non gli era difficile sottrarre qualche soldo qua, qualche soldo là. Alla fine della seconda settimana aveva 10 dollari in tasca. Con questi e i 5 che Ida gli diede, comprò gli arnesi per la barba, un paio di scarpe di pelle scamosciate da pochi soldi, un paio di camicie e di cravatte. Fece il conto che restando lì altre 2 settimane si sarebbe fatto un vestito da poco prezzo. Non aveva di che vergognarsi, pensava. Era praticamente denaro suo quello che prendeva. Il negoziante e sua moglie non ne avrebbero risentito perché non sapevano di averlo e non lo avrebbero avuto se non fosse stato per il suo sgobbare. Non ci fosse stato lui lì a lavorare, avrebbero avuto meno, nonostante quello che lui si prendeva. Si propinava questi argomenti persuasivi solo per ritrovarsi poi tormentato dai rimorsi. Gemeva grattandosi il dorso delle mani con le unghie spesse. Talvolta si sentiva mancare il respiro e sudava copiosamente. Parlava a se stesso ad alta voce mentre si radeva o al gabinetto, esortandosi all'onestà. Ciò non di meno provava una curiosa soddisfazione nel suo rimorso, come a volte in passato quando faceva qualcosa che sapeva di non dover fare. Così continuò a mettersi in tasca quarti di dollaro. Una sera, sentendosi molto a disagio per tutto il male che stava facendo, promise a se stesso che avrebbe cominciato a rigar dritto. Potessi farne una giusta, sarebbe il primo passo sulla buona strada. Poi pensò che se fosse riuscito a prendere la pistola e a liberarsene, si sarebbe perlomeno sentito meglio. Uscì dopo cena e vagabondò irrequieto per le strade nebbiose, con un senso d'oppressione in petto per le lunghe giornate trascorse nel negozio e perché non era molto mutata la sua vita da quando era venuto qui. Passando accanto al cimitero, cercò di tener lontano il ricordo della rapina, ma continuava a ripresentarglisi. Si rivedeva seduto con Ward Minogue nella macchina parcheggiata, in attesa che Carpe uscisse dal negozio di Morris. Ma quando Carpe era uscito, le luci nella sua bottega si erano spente ed egli si era nascosto in mezzo alle bottiglie nel retro. Ward gli aveva detto di girare rapidamente con la macchina intorno all'isolato in maniera da far uscire l'ebreo. Lo avrebbe steso con una botta sul marciapiede e gli avrebbe portato via quel bel portafoglio gonfio. Ma quando furono di ritorno, la macchina di Carp era scomparsa con Carp dentro e Ward gli aveva lanciato una maledizione, augurandogli di crepare presto. Frank aveva detto che, dal momento che Carp se l'era svignata, avrebbero fatto bene a tagliare la corda anche loro, ma Ward se n'era restato lì seduto col suo mal di cuore, gli occhietti fissi al negozio di Morris, l'unico ancora illuminato dell'isolato, oltre al negozio di dolciumi all'angolo. «No», aveva insistito Frank, «è solo un piccolo negozio. Non credo che sia riuscito a incassare $30 oggi». «30 sono sempre 30», disse Ward. «Non mi importa che sia Carpo Bober, un ebreo è un ebreo». Frank si mise il berretto e attraversò i binari del tram con Ward Minogue. «È il tuo funerale», disse, ma in realtà era il suo. Ricordava d'aver pensato mentre entrava in negozio che un ebreo è un ebreo. Che differenza fa? Ora pensava: l'ho rapinato perché era un ebreo. Ho qualcosa a che fare con gli ebrei per usare loro dei riguardi? Dannazione? Ma non sapeva rispondere e accelerò il passo lanciando di tanto in tanto un'occhiata alle tombe al di là della cancellata irta di punte. A un certo punto gli parve d'essere seguito e il cuore prese a martellargli forte. Si affrettò a oltrepassare il cimitero e svoltò nella prima strada a destra, tenendosi ben accosto alle verande delle case di pietra mentre percorreva rapidamente la strada buia. Quando raggiunse la sala da gioco, si sentì sollevato. La sala da gioco di Pop era un locale malinconico con 4 tavoli. Il proprietario, un vecchio italiano col cranio calvo solcato di vene azzurrine, se ne stava accigliato, le mani penzolanti, accanto alla cassa. «Già venuto, Ward?» chiese Frank. Pop accennò verso il fondo della sala. Ward Minogue col cappello nero sfilacciato e il grosso cappotto, stava esercitandosi da sola a un tavolo. Frank lo stette a guardare mentre piazzava una palla nera accanto a una buca laterale e la prendeva di mira con una bianca. Si chinò in avanti, rigido, il viso teso, un mozzicone pendente dalla bocca stanca, tirò e fece cilecca. Batté la stecca sul pavimento. Frank aveva oltrepassati i giocatori degli altri tavoli. Quando Ward alzò gli occhi e lo vide, gli si accese lo sguardo di paura. La paura scomparve quando lo riconobbe, ma il viso foruncoloso gli si era coperto di sudore. Sputò a terra il mozzicone. «Che cosa hai ai piedi, bastardo? Scarpe di gomma? Non volevo rovinarti il tiro. Comunque lo hai fatto. Ti sto cercando da una settimana». «Ero in vacanza», Ward sorrise agli angoli della bocca. «Una sbronza?» Ward si mise la mano sul petto ed emise un rutto. «Maledizione! Vorrei! Qualcuno ha avvertito il mio vecchio che ero nei paraggi. Così mi sono nascosto per un po'. È stata dura. Il mio mal di cuore peggiora». Appese la stecca e si asciugò il viso con un fazzoletto sporco. «Perché non vai da un dottore?» disse Frank. «All'inferno i dottori! Qualche medicinale potrebbe aiutarti. Quel che mi aiuterebbe sarebbe che quel dannato di mio padre crepasse. Ho da parlarti, Ward», disse Frank sottovoce. «E parla?» Frank fece un cenno in direzione dei giocatori del tavolo vicino. «Vieni fuori nel cortile», disse Ward. «C'è qualcosa che voglio dirti». Frank lo seguì fuori dalla porta posteriore e in un cortiletto chiuso, con una panca di legno appoggiata al muro. Dallo stipite della porta in alto cadeva su di loro la luce fioca di una lampadina. Ward si sedette sulla panchina e accese una sigaretta. Frank fece lo stesso, prendendola dal suo pacchetto. Aspirò, ma senza ricavarne alcun piacere, per cui la buttò via. «Siediti», disse Ward. Frank si sedette sulla panchina. «Persino nella nebbia costui puzza», pensò. «Cosa vuoi da me?» chiese Ward, gli occhietti irrequieti. «Voglio la mia pistola, Ward». «Dov'è?» «Per farne cosa?» «Voglio buttarla in mare». Ward ghignò. «Un gatto ti ha mangiato i coglioni? Non voglio che mi arrivi un qualche sbirro a chiedermi se è mia. Credevo che avessi detto che l'avevi presa da un ricettatore». «È così. Allora nessuno l'ha registrata. Di che hai paura?» «Se tu la perdessi», disse Frank, «potrebbero risalire a me, anche se non è stata registrata». «Non la perderò», disse Ward. Dopo un minuto spiaccicò la sigaretta a terra. «Te la restituirò dopo che avremo fatto un lavoretto che ho in mente». Frank lo guardò. «Che genere di lavoro?» «Carp. Voglio rapinarlo». «Perché carp? Ci sono negozi di liquori più grossi. Odio quell'ebreo figlio di puttana e quel suo Lewis con i suoi occhi da bue». «Faresti meglio a star lontano da quell'isolato», lo avvertì Frank. «Qualcuno potrebbe riconoscerti». Ward si sfregò il petto con noncuranza. «Va bene, mi hai convinto. Andremo da qualche altra parte». «Non con me», disse Frank. «Pensaci, ne ho avuto abbastanza». Ward si mostrò disgustato. «Dal primo momento che ti ho visto, ho capito che te la saresti fatta addosso». Frank non rispose. «Non fare tanto l'innocentino», riprese rabbiosamente Ward. «Sei uno che scotta anche tu, proprio come me». «Lo so», disse Frank. «L'ho colpito perché non diceva dove aveva nascosto il resto dei quattrini», disse Ward in tono polemico. «Non li aveva nascosti. È un negozio povero, miserabile. Mi pare che tu sia ben informato. Cosa vuoi dire?» «Non fare il furbo. So che ci lavori». Frank trattenne il respiro. «Mi sei venuto dietro ancora, Ward?» Ward sorrise. «Ti sono venuto dietro una sera dopo che hai lasciato la sala da gioco. Ho scoperto che lavoravi per un ebreo e che mangiavi cacca d'uccelli come loro. Frank si alzò lentamente. Mi ha fatto pena quando l'hai colpito. Allora sono tornato per dargli una mano mentre era senza forze, ma non ci starò molto a lungo. È stato veramente carino da parte tua. Suppongo che gli avrai restituito quei pidocchiosi $7.50 che erano alla tua parte. Li ho rimessi in cassa. Ho detto alla padrona che gli affari andavano meglio. Non avrei mai pensato di mettermi con uno dell'esercito della salvezza. L'ho fatto per mettermi in pace la coscienza, disse Frank. Ward si alzò. Non è la tua coscienza quella che ti preoccupa. No, è qualcos'altro. Mi dicono che quelle ragazze ebree a letto sono formidabili. Frank se ne tornò via senza la pistola. Helen stava con sua madre mentre Ida controllava i soldi. Frank rimase dietro il banco a pulirsi le unghie col temperino, aspettando che se ne andassero per chiudere. «Credo che farò una doccia calda prima d'andare a letto», disse Helen a sua madre. «È tutta la sera che ho freddo». «Buonanotte», disse Ida a Frank. «Ho lasciato $5 di spiccioli per domattina». «Buonanotte», rispose Frank. Uscirono dalla porta di dietro e Frank le sentì salire le scale. Chiuse il negozio e andò nel retrobottega. Sfogliò il news, poi divenne nervoso. Dopo un po' andò in negozio e si mise in ascolto alla porta laterale. Tolse il lucchetto, accese la luce della cantina, richiuse la porta dietro di sé in maniera che nessuna luce potesse filtrare nell'atrio e scese silenziosamente le scale. Trovò la conduttura dell'aria, dove era sistemato un vecchio ascensore montavivande fuori uso, scostò il cassone polveroso e guardò su per la conduttura verticale. Frank lottò con se stesso, ma non a lungo. Scostando il più possibile il montavivande, si insinuò nella conduttura e si issò sopra la cassa. Il cuore gli batteva tanto da dargli il tremito. Quando i suoi occhi si abituarono al buio, vide che la finestra del bagno era a meno di un metro dalla sua testa. Tastò il muro fin dove poté e toccò uno stretto bordo attorno alla conduttura. Pensò che avrebbe potuto puntellarcisi per guardare nel bagno, ma se lo fai, si disse, ne soffrirai. Benché gli dolesse la gola e avesse gli abiti inzuppati di sudore, l'eccitazione di quello che avrebbe potuto vedere lo spinse a salire. Facendosi il segno della croce, afferrò le due corde del montavivande e lentamente si issò, pregando che la puleggia sul lucernario non cigolasse troppo. Sporgendosi in avanti, non troppo, poteva guardare attraverso la finestra, senza tendine, nel bagno antiquato. Helen era là e si stava guardando nello specchio con gli occhi tristi. Pensò che sarebbe rimasta lì per sempre, ma infine aprì la cerniera della veste da camera e se la sfilò. Provò una stretta al cuore alla vista della sua nudità, un irresistibile desiderio di amarla e al tempo stesso la coscienza di qualcosa di perduto, di non avere mai avuto quello che più aveva bramato e altri sentimenti del genere che non desiderava ricordare. Helen aveva un corpo giovane, morbido, bello, i seni come piccoli uccelli in volo, le natiche un fiore. Eppure era un corpo malinconico, nonostante la sua bellezza, anzi, più malinconico per questo. I corpi sono malinconici, pensò, ma a letto lei non sarebbe stata malinconica. Gli parve più vera ora che gli si era rivelata senza abiti, più concreta, più accessibile. A rimirarla, provava un senso di avidità, come uno tutt'occhi davanti a una tavola imbandita, cui la fame dura finché deve limitarsi a guardare. Ma guardandola, la respingeva in una sfera irraggiungibile, trasformandola in un puro oggetto della propria immaginazione. Gli occhi di lei riflettevano i suoi peccati, il suo passato corrotto, i suoi ideali infranti, la sua passione avvelenata dalla vergogna. Gli si inumidirono gli occhi e se li asciugò con una mano. Quando li risollevò, gli parve con orrore che, attraverso la finestra, lei lo stesse fissando spietata, un sorriso di scherno sulle labbra, lo sguardo colmo di disprezzo. Follemente meditò di buttarsi giù e di spaccarsi le ossa. Ma lei azionò la doccia ed entrò nella vasca, tirando intorno a sé la tenda di plastica a fiori. Ben presto la finestra si coprì di vapore. Provò per questo sollievo e gratitudine. Si lasciò calare giù silenziosamente. Quando fu in cantina, invece dell'opprimente rimorso che si era aspettato, provò una gioia struggente.